perché ci vorrebbero tante cose, se ti piace quelle moglie ci vorrebbero tante cose. Una bella e tempo spose, una bella e tempo spose, le potrebbe carina, le potrebbe volente combinarsi dove se quelle moglie ci vorrebbero tante cose, ci vorrebbero tante cose, ci vorrebbero tante cose. Una bella e tempo spose, una bella Le po' tutte combinare. Vuoi bellezza, vuoi ricchezza, grazie, amore, ti consola. Trovi tutto in questa sola, trovi tutto in questa sola. È una donna singolar, è una donna, è una bellezza, vuoi ricchezza, vuoi bellezza, vuoi amore, vuoi amore, vuoi amore, ti consola. Trovi tutti in questa sola, trovi tutti in questa sola. È una donna, è una donna, è una donna singolare, è una donna singolare, è una donna singolare. E sento, la vorrei, schietta, schietta, e poi... È tutta lei, è tutta lei. Io vorrei due negli occhi. Son due stelle, son due stelle. Chiome nere, guance belle. Chiome nere, volto bello. Ed ogni parte a cui mi inciampo, che da dire che la pare. Caro amico non ci scampo, se la vede la cascata. Se fate mi compare, caro amico non ci scampo, che da dire che la pare. Se la vede la cascata, la cascata, la cascata, la cascata, la cascata. Ai capricci della sorte, io so fare, io Non ci pensare però, sarà quel che sarà. Al mio fuoco, al trasporto, al desiderio,

Un palo, addirittura, a te che brutto affare. so comprendere tanto questo. Oddio che fulmine, non so rispondere. Amore al giorno di te, non rispondere. Voce stupidi, in certi bello, non so comprendere tanto questo. Oddio che fulmine, non so rispondere. Si è stupidi, incerti, vedono, non so comprendere tanto. Stupidi, che fulmine, non so rispondere, amore aiutami per carità. Si è stupidi, incerti, vedono, non so comprendere tanto. Stupidi, che fulmine, non so rispondere, amore aiutami per carità. Thank you. patria e fin me stesso mio, su questo lido trovo l'indoro e lo ritrovo infido. Or ti leggo, la nota resta, adorata Isabella, in che peccai